24. La storia. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. 1958. Sono passati 13 anni dalla fine della guerra e dalla disastrosa esperienza del ventennio fascista. L'Italia vive una stagione straordinaria e gli italiani possono di nuovo sperare in un futuro migliore. Il desiderio di vivere, il nuovo benessere, la ritrovata stabilità sociale ed economica fanno da sfondo a quegli anni che verranno poi ricordati come quelli del boom, gli anni del miracolo economico. Cantare! Oh oh oh! Nel 1960 il Financial Times assegna l'Oscar alla lira italiana come moneta più stabile d'Europa. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di Roma nella sua espressione più gaudente e popolare del vivere. La dolce vita. Federico Fellini, Via Veneto sono le sue icone, ma in realtà il boom economico è spesso solo un'espressione letteraria. Le migrazioni, le evidenti sacche di povertà, gli intrighi politici, gli omicidi, tutto sembra contraddire quanto la storia e il mito hanno tramandato. Ma era davvero così dolce la vita a Roma? La burocrazia, il lavoro ministeriale, le attività collegate ai palazzi del potere politico sono da sempre le attività basilari della capitale. Ma nella seconda metà degli anni 50 il cinema diventa un settore produttivo molto presente nel tessuto lavorativo di Roma. Ed è proprio il cinema a far nascere il mito di Via Veneto, a trasformare un'elegante ma anonima via del centro di Roma in un'icona famosa in tutto il mondo. Ennio Flaiano scrive: in questi ultimi tempi Roma si è dilatata, distorta, arricchita. Via Veneto non è più una strada, ma una spiaggia. I caffè che straripano sui marciapiedi hanno ognuno un tipo diverso di ombrellone, come gli stabilimenti balneari. Le automobili scivolano come gondole e il pubblico prende il fresco e si muove su e giù con l'indolenza delle alghe. Il mito della dolce vita crescerà in quegli anni insieme al progredire economico e sociale dell'intero paese. Via Veneto diventa vetrina e palcoscenico per decine di attori, dai divi hollywoodiani alle comparse arrivate dalla provincia, e con loro politici, intellettuali, prostitute, malavitosi, spie dei servizi segreti. Via Veneto esprime il desiderio di mondanità del nostro paese, il volersi sprovincializzare degli italiani. La dolce vita comincia a Roma come fenomeno diciamo nuovo, con l'arrivo dei grandi registi americani, delle truppe americane, della decisione di fare di Roma quella che i giovani di oggi chiamano la location, cioè Roma diventa una sorta di location privilegiata per girare dei film. L'esempio è quello di Vacanze Romane con Gregory Peck e Audrey Hepburn, una visione soft di una città, mentre in realtà in quello stesso periodo Roma, la Roma politica, la Roma industriale, la Roma di tutti i giorni vive esperienze diverse. Un esempio pratico: intanto non c'era ancora la legge sul finanziamento pubblico dei partiti, i partiti dovevano finanziarsi da soli, dovevano cercare soldi in qualche modo, ed ecco lo svilupparsi di una serie di scandali. Italcasse, che diventa lo scandalo di Roma e della DC, l'Ingic, che finanzia invece tutti i partiti. Questi scandali, diciamo, amareggiavano il mondo politico, lo mettevano gli uni contro gli altri, ed era l'epoca in cui i governi duravano 6 mesi, un anno. È notte a Via Veneto, la lunga pettegola notte di una delle strade più belle ed eleganti del mondo. Poliglotti i giornali di queste edicole. Il lieve ponentino romano accarezza galante le spalle delle belle donne e le fronti degli uomini d'affari e di quelli che affari non hanno, ma sperano di averli. Gli uomini del cinema che qui sono di casa parlano di film, di grandiosi film. Avete sentito il giornalista Roberto Martinelli. Il cinema italiano ha un'influenza in tutto il mondo, specialmente film come Roma città aperta o Ladri di biciclette irrompono nel panorama internazionale con dei canoni artistici del tutto inediti. Inoltre, le maestranze italiane sono bravissime e costano poco. E così gli americani scelgono Roma come location per il colossal Ben-Hur. È il 1958, ce ne parlano il capo macchinista Alberto Anzelotti e il direttore della fotografia Sergio Salvati. Ecco a Cinecittà i primi giri di manovella per il nuovo Ben-Hur, un colosso del 1958 in gara con gli antichi colossi del muto. Con noi erano tranquilli in tutto, eravamo inventivi, qualunque soluzione, problema c'era di lavoro, noi eravamo capaci a risolverlo in breve mani, così. Quello che in America si andava sempre sezionato secondo quello che faceva la maestranza, lì era, ognuno aveva il suo lavoro, invece in Italia era più così collaborativo. E poi è stato un film che nel mondo Cinecittà l'hanno conosciuta tutti. Hollywood e Cinecittà erano alla pari. Spettacoli il cui allestimento costa miliardi e forse per questo vediamo fra i presenti il ministro delle finanze Andreotti. Grande parata. Ma non è una via lunghissima come tanti boulevard nel mondo, eppure in quei pochi centinaia di metri si sentiva che c'era la famiglia del cinema, c'erano gli scandaletti del cinema, c'erano le supposizioni e si vedevano poi facce piacevoli di, appunto, di scrittori, registi, sceneggiatori, attori o tecnici anche, un po' meno perché noi siamo stati sempre, chi sta dietro la macchina presa, un pochino più riservato, però ogni tanto, specialmente in giovani età, si poteva andare. Preceduto dalla moglie e in compagnia del figlio giunge a Roma Carlton Heston per interpretare il colossale Ben-Hur. Il film avrà inizio a Cinecittà il 26 maggio, il giorno dopo le elezioni. Quando sono arrivato la prima volta a Cinecittà sentivo parlare però solo di Ben-Hur, Ben-Hur, Ben-Hur e vedevo poi nei viali le cose, le comparse, le centinaia, migliaia di comparse. Io nei 30-40 anni ultimi spesso mi sono incontrato di andare in un l'ufficio di un notaio, di conoscere degli architetti o dei dottori o sennò chi lavora alle poste e spesso mi ha detto ma sai che io ho fatto, sapendo che io cinema come professione, dice, ho fatto la comparsa nelle droghe, Ben-Hur, Barabba. Shushana, Shushana, Shushana, come back to my Chinatown, I sing for you Shushana. I show a memories clown. La mattina del 6 giugno 1958 a Cinecittà sono attese 2000 comparse per il film Ben-Hur. L'enorme impegno economico espresso dalla produzione attira tutte le comparse di Roma. Ne arrivano più di 7000. La produzione cinematografica a Roma registra nel decennio tra il 55 e il 65 un'accelerazione davvero notevole, fino ad arrivare a realizzare più di 200 film l'anno. Tuo zio ti aspetta, raggiungi. Quando ti guarda decifrano. È tutto cinema, cinema, cinema. Le famiglie intere lavoravano, perché i disoccupati ce n'erano tanti, però nel cinema trovavano un rapporto di lavoro che per quei giorni che lavoravano potevano mettere su qualcosa sul fuoco. Venivano qui alla mattina alle 4, alle 5, cominciavano a vestire queste 2.000, 3.000 persone, 1.000, insomma il minimo di comparse al giornaliere erano sui 500, insomma, quando si lavorava in esterno. E questo qui a volte creava delle difficoltà appunto per tenere, cioè, ma come scontri così, non è che mi ricordo, anche perché noi finito poi il rapporto di lavoro si andava via, non era come loro che dovevano rimanere fino a chissà che ora per poi prendere i soldi, e la difficoltà era questa più che altro. Avete sentito il capo macchinista Alberto Anzelotti. Ben-Hur esce nelle sale nell'autunno del 1959. È il primo colossal girato nello splendore dei 70 mm e con la magia del suono stereofonico. Il successo è strepitoso in tutto il mondo. Ben-Hur vince ben 11 Oscar. La prima al Cinema Capitol di Roma è un'occasione di mondanità in perfetto stile dolce vita. Così Dacia Maraini. Roma era una città molto più familiare, era un po' come un villaggio. Era veramente piccola nel suo centro, anche se avevano cominciato a ingrandirsi le periferie, però il centro era piccolo e quindi Via Veneto era una parte di questa piccola città in cui c'erano dei bar simpatici dove si incontravano appunto i musicisti, i cineasti, gli attori. Io forse frequentavo di più Piazza del Popolo, non lo so perché, non so se ci fosse una dicotomia fra quelli che frequentavano Via Veneto e quelli che frequentavano Piazza del Popolo, non lo so, non ci ho mai pensato. Comunque i miei ricordi sono ricordi di Piazza del Popolo, dove veramente c'erano tutti gli artisti, anche quelli che venivano da fuori, come mi ricordo bene di Sartre e della Beauvoir, della De Beauvoir. Mix 24, la storia. Come è cominciata la sua carriera di paparazzo? Beh, cominciò una sera del Ferragosto del 58. La città era completamente vuota, perché lei, come sa, i romani a Ferragosto vanno fuori Roma. E io ero solo quella sera e passeggiavo per la città e capitai in Via Veneto. E davanti a un caffè, a un nuovo caffè di Via Veneto, vidi seduto Farucchi, l'ex re Farucchi, con le due Minutolo, le capesce Minutolo, le due ragazze che lo accompagnavano sempre. Mi avvicinai per fare una fotografia e il re non si aspettava di essere fotografato. E quella sera la sua guardia del corpo evidentemente era distratta, non se ne accorse, se ne è accorto soltanto lui. Mi è saltato addosso, si è alzato dalla sedia letteralmente con tutta la sua mola così, e mi è balzato addosso. E sono stato letteralmente abbracciato da Re Farucchi, che tentava di togliermi la macchina fotografica. Non ci è riuscito, naturalmente, perché poi è intervenuta altra gente, la polizia, io sono riuscito a nascondere la macchina. Quella sera è stata, secondo me, l'inizio della dolce vita. Cioè, per quello che mi riguarda, insomma, non per il film di Fellini. Perché pochi minuti dopo un amico mi ha avvertito, che è venuto ad avvertirmi, che in un locale notturno, a pochi metri di distanza, c'era Ava Gardner e Tony Franciosa, che stavano girando un film qui a Roma, e non erano mai stati fotografati insieme. Allora, munito di una piccola torcia, non del grosso flash che usiamo di solito, ma un piccolo flash per dilettanti, applicato alla macchina, nascosto sotto la giacca, entrai nel locale notturno. Feci la fotografia, una sola. E il lampo accecò un po' tutti. E io riuscii a scappare. Pochi minuti dopo, proprio è stato evidentemente un caso, quella sera si era dato evidentemente appuntamento in Via Veneto, Anita Ekberg e Anthony Steele passavano in macchina e hanno cominciato a litigare. Feci anche lì delle fotografie. Rieccoci a Mix 24. Avete sentito il racconto del paparazzo Tazio Secchiaroli. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Roma, che alla fine degli anni 50 contagia con il suo stile di vita più di 2 milioni di abitanti. La sua crescita è stata rapida e scomposta. Molti sono quelli che a partire dal 1945 abbandonano le campagne e i piccoli centri, attratti dal miraggio della vita in città, con il suo benessere, il lavoro e il nuovo stile di vita. Roma cresce ad un ritmo di 30.000 abitanti l'anno. L'espansione urbanistica della capitale è stata imponente. Le grandi opere per le Olimpiadi, la costruzione del raccordo anulare, il nuovo aeroporto di Fiumicino, l'edilizia popolare hanno via via trasformato l'aspetto della città. In pochi anni Roma si è espansa, creando nuovi quartieri, costruendo edifici, ponti, strade, tangenziali. L'emigrazione interna da cui Roma viene investita, con il conseguente aumento della popolazione, amplifica il problema della casa che nella capitale è, nel 1958, già molto grave. Circa 50.000 persone vivono nelle baracche a stretto contatto con la città che cresce. Io ho fatto diverse inchieste per il Paese Sera, a cui io collaboravo, proprio su cos'erano le baracche intorno a Roma, ed erano i resti del fascismo quando per entrare a Roma ci voleva il permesso durante il fascismo. Allora molti lavoratori immigrati che venivano da fuori non potevano entrare a Roma, non potevano dormire a Roma, avevano solo il permesso di lavorare, e allora si costruivano queste baracche proprio malfatte, non ci avevano spesso l'acqua, la luce, non avevano le fogne ed erano ai margini della città. Aveva nel pensiero di poter trovare lavoro più meglio, pagato più meglio, e invece... Io desidererebbe una casa, perché ho una famiglia grande, ho 5 figli. Dovevo affittare un appartamento, io questa possibilità non ce l'avevo, perciò ho dovuto sbattere qui all'acquedotto. un lavoro stabile, a sua volta diciamo se ci dasse a casa, con un lavoro stabile potesse diciamo pagare a pigione oppure avendo diciamo un mensile. Via Veneto a partire dagli anni 60 è sgargiante ma anche ambigua. Dietro le facciate dei grandi alberghi si nascondono spie di tutto il mondo e vicino alla stessa Via Veneto avvengono delitti feroci come quello di Christa Wanninger, così il giornalista e scrittore Costanzo Costantini. La filante attrice di destra Christa Wanninger viene uccisa a pugnalate, una delle pugnalate le spacca il cuore, ma questo avviene in via Emilia, una parallela di via Veneto, per di più in pieno giorno, alle 11 del mattino. Pare che nel delitto fossero coinvolti anche i servizi segreti italiani. Difatti un ex maresciallo dei carabinieri, che si era dimesso dall'arma per indagare liberamente sul delitto, morì in un incidente stradale molto sospetto. Ah, il caso Martirana è un caso feroce, che avviene sulla Nomentana in un ambiente medio borghese. E questa signora Martirana, Maria Martirana, era separata dal marito che era un industriale comasco. E questo delitto assume insomma un aspetto di particolare ferocia perché Maria Martirana venne strangolata da un uomo che doveva avere le mani di pietra, Raul Ghiani, l'uomo che fu accusato del delitto, era un uomo molto alto, molto grosso, dalle mani veramente pesanti, dalle mani di pietra. I deputati hanno approvato, 385 sì, 115 no, la famosa legge Merlin. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunto in petto a te, stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansè. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me. Che bella pansè che tieni, che bella pansè che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua pansè. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panze mie, panze tua, in ricordo del nostro. Fellini andava alla ricerca di una bomba. Bomba era quella che lui definisce una mongolfiera, cioè un'immensa donna di malaffare, nello stesso tempo sinistra e affascinante, cioè una grande puttana. E andava a cercarla con Pasolini, ma Fellini poi scrive che l'ha trovata in via del Tritone, che camminava regalmente in mezzo alla strada, come fosse la regina della strada. Ed in verità, negli anni 60, in via del Tritone c'era una di queste peripatetiche, una immensa donna bionda dai capelli stopposi, enorme, una gigantessa, come diceva Fellini, ed ha dominato per anni da questa strada, via del Tritone, da piazza Barberini al Messaggero. E ricordo che c'era un redattore del Messaggero che aveva delle idee vagamente moralistiche, che si era messo in testa di convertirla e andava a disturbarla continuamente per cercare di redimerla. E questa un giorno ha gridato, dice, ma chi è questo scemo? Ma se io ho fatto l'amore con tutti gli uomini del mondo, questo qui mi vuole salvare. C'è gente che ha avuto mille cose. Il 9 ottobre 1958 muore Papa Pio XII. Dopo 21 giorni è fumata bianca. Angelo Giovanni Roncalli è il nuovo Papa e decide di prendere il nome di Giovanni. Fu subito detto che sarebbe stato, sia per i suoi 77 anni, che per gli atteggiamenti da buon parroco, un Papa interlocutorio. Era nato in una famiglia povera e numerosa. Non passarono 3 mesi dall'elezione e fu subito chiaro anche ai più distratti che Giovanni XXIII non sarebbe stato un papa di transizione. C'è gente che ama mia. mondanità che si respira a Roma in quegli anni raggiunge inevitabilmente il Vaticano. Sono innumerevoli le visite di monarchi, capi di Stato e personaggi dal jet set al nuovo vicario di Cristo. Mix 24. La storia. Aprile 1959 c'è una sparatoria a Città del Vaticano. Il capo della guardia svizzera viene ferito da un ex gendarme che vuole vendicarsi per essere stato licenziato. Dopo qualche mese scoppia un incendio all'hotel Ambasciatori, a due passi da Via Veneto. Sorprese dalle fiamme, quattro donne si gettano dal quarto piano. Clarice Achilli è l'unica a salvarsi. Per le altre, due dattilografe ed una giovane attrice, non c'è nulla da fare. Nel luglio dello stesso anno, un grave attentato dinamitardo viene messo in opera dai servizi segreti francesi. Una bomba esplode a bordo dell'auto di un diplomatico tunisino, uccidendo un bambino e ferendo cinque passanti. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno destino. All'inizio del 1960, una giuria internazionale del Financial Times assegna alla lira italiana l'Oscar della moneta più stabile d'Europa. Roma, intanto, si prepara alle Olimpiadi, con grande impegno e sacrificio per la cittadinanza. Sono centinaia i cantieri in tutte le città. Ce ne parlano Roberto Martinelli e Costanzo Costantini. È una sera del 20 febbraio, giù di lì, la delegazione liberale ritira il suo sostegno al governo Segni, per cui, in sostanza, Gronchi è costretto a accettare le dimissioni di Segni e dopo un lungo giro di consultazioni incaricò Tambroni. Tambroni era un uomo, diciamo, cattolico di destra, conservatore, un uomo che evidentemente gli americani avrebbero ben accolto, accettato come Presidente del Consiglio. Però successe qualcosa, successe che lui fece in modo che il convegno del MIS potesse svolgersi a Genova. Questa notizia scatenò una serie di tumulti a Roma, a Genova, a Milano, per cui ricordo i fatti di Roma, i fatti di Porta San Paolo, per cui Roma visse veramente una delle giornate più buie, più tristi, più drammatiche della storia di quegli anni. Da questo scontro di piazza, poi dopo soltanto 3 mesi e 4 giorni, Tambroni dovette dimettersi e rassegnare il mandato. Come informano i rapporti degli istituti specializzati, buona parte dell'ottimo andamento dell'economia italiana è oggi sostenuta dalla domanda interna dei beni di consumo. Con le pinne. Fellini, che abitava ai Parioli, abitava in via Lutezia, una strada dei Parioli, ogni giorno andava a Cinecittà e scendeva per via Veneto. Spesso era accompagnato da Ennio Flaiano, il suo sceneggiatore principe. Fellini notava che via Veneto era in permanenza, era teatro di un trambusto indiavolato, perché per incontrare o vedere questi divi e divi americani venivano da tutte le parti della città, anche dall'Italia, e poi c'erano i paparazzi. Fellini, notando questo vitalità infernale nella strada, aveva pensato di girarvi un film. Con Federico Fellini e con il produttore Peppino Amato stiamo passeggiando qui in via Veneto. Veramente questa è una serata speciale, ci sono un po' tutti questa sera. C'è Pierre Brasser accanto ad Annibale Ninti, Anna Maria Leggiani accanto a Kerima, c'è Luisa Rainer, Anita Ekberg, e questa via Veneto è una via Veneto speciale, come potete vedere da queste costruzioni che sono state fatte appunto per ricreare in studio a Cinecittà via Veneto per il film di Federico Fellini. Dunque Federico, tu hai ambientato questo film, una parte principale di questo film, in via Veneto, cioè in una strada che ormai è diventata la strada della grande città, allo stesso modo come la Gran Via è la strada di Madrid, la Kungsgatan è la strada di Stoccolma, il Times Square è il centro di New York, vero? Sì, via Veneto è un pochino il cuore del film, la maggior parte delle scene si svolgono in via Veneto, perché il protagonista Marcello, che è un giornalista, ha la redazione del suo giornale proprio sopra il Café de Paris, perché via Veneto dà la possibilità di incontrare tutto il mondo, sia romano che quello cosmopolita, che si raduna appunto così stravaccato lungo i vari caffè di via Veneto. Alcuni campi lunghi li ho girati a via Veneto, però per ragioni di traffico, così ho ascoltato il consiglio di Peppino Amato. Grazie. Quale, fin dal principio mi ha detto: guarda, che via Veneto tu non puoi girare. Io invece insistevo testardamente, perché credevo di perdere qualche cosa girando in teatro. Peppino Amato mi ha messo a disposizione il più grande teatro di Cinecittà e ha fatto fare una ricostruzione che, come vedi, veramente non ha niente da invidiare alla via Veneto che tu ben conosci. Per tutta la notte, fedele alle esigenze del personaggio, Anita Ekberg è rimasta nelle acque della fontana, obbedendo agli ordini del regista. Anita è svedese e da vera vichinga non teme il freddo. Ma all'alba, quando è uscita dalla fontana, non abbiamo avuto il coraggio di chiederle di restare ancora un poco per la nostra intervista. E la folla, che incuriosita si era radunata, ha visto così che la vita delle attrici non è fatta soltanto di cocktail party e di feste mondane. Avete sentito Federico Fellini intervistato nel 1959 da Carlo Mazzarella. La notte del 3 febbraio 1960, il mondo della canzone italiana perde uno dei personaggi italiani più amati. Fred Buscaglione muore in un incidente d'auto a Roma, nel quartiere Parioli, scontrandosi alle 6:30 del mattino con la sua Ford Thunderbird color rosa cipria contro un camion carico di tufo. Buscaglione incarna uno stereotipo della dolce vita, personaggio da nightclub, da locali pieni di belle donne e di alcol. Quella notte ritornava in albergo dopo una serata passata con gli amici alla Rupe Tarpea, locale notturno alla moda. Ma quelli che erano con lui giurano che il musicista non aveva assolutamente bevuto. Era infatti atteso l'indomani mattina di buon'ora sul set del film Noi Duri per girare le ultime scene. Quella corsa spericolata nella notte nel centro di Roma gli fu fatale. Dopo l'impatto, i soccorritori si resero subito conto delle gravi condizioni in cui versava il cantante. Ma a quell'ora del mattino non passava nessuna automobile. Furono costretti a fermare un autobus di linea per raggiungere il più vicino ospedale. Ma fu tutto inutile. Vacci piano. Ferdinando Buscaglione, il re dello swing, il cantante dei gangster buoni, muore a soli 39 anni su un autobus dell'ATAC in un tragico mattino. Estate 1960 si aprono a Roma i giochi della 17ª Olimpiade. È l'occasione per la capitale di dimostrare al mondo la propria nuova immagine. Il nostro paese può di nuovo confrontarsi a livello internazionale e confermare la sua vocazione turistica. Le Olimpiadi di quell'estate diventano l'emblema del miracolo italiano. A parlarcene è il campione proprio in quella Olimpiade, Livio Berruti. Livio Berruti, l'uomo più veloce d'Italia, una delle nostre più fondate speranze per le Olimpiadi. Questo è lo stadio olimpico. Qui converrà l'elite mondiale dell'atletismo per le Olimpiadi del 1960. È senz'altro uno dei migliori stadi che io conosca. E così pure la pista e le pedane sono costruite secondo gli ultimi dettami della tecnica moderna. Per le pedane dei salti, a quanto mi dicono i miei colleghi saltatori, gli impianti erano molto belli, il villaggio olimpico l'ha fatto al momento, era piacevole, soprattutto lo stadio era molto bello, gli stadi che dove avvenivano le gare erano fatti con molta cura e attiravano l'attenzione di tutti. Molto bello anche lo stadio dei marmi, a parte questa apoteosi di statue molto belle che facevano ovviamente andare a un passato glorioso dell'antichità. Era lo stadio dove ci si scaldava per accedere alle gare dell'Olimpico. No, ci fu un apprezzamento generale, anche se con qualche critica. Infatti mi ricordo di aver letto che la via olimpica, proprio il giorno dell'inaugurazione, ebbe una frana in una località, e quindi questo ha creato molte maliziose critiche sull'efficienza di certe strutture. È si leggevano di questi incontri fra attricette e personaggi famosi in Via Veneto, si leggevano di strani festini che avvenivano proprio in Via Veneto, che alcuni giuravano di osservare, festini piuttosto osé, no? Ma tutto questo però rimaneva nell'ambito dell'informazione, che non so se fosse più gossip o più realismo. Il paparazzo non riguardava la vita degli altri campioni, riguardava solo, soprattutto, la vita dell'attrice, la vita dei campioni, forse vicino alle attrici. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. L'Italia vive il miracolo economico. Le auto immatricolate a Roma sono già più di 300.000. Passeggiatina romantica in via Veneto di Jean Cocteau, in Montgomery Verde Pisello, preoccupato di non avere l'aria abbastanza giovanile. Il celebre esteta parigino. Ricordo di aver frequentato molto Piazza del Popolo. Via Veneto veramente mai, non so perché. E soprattutto Rosati, dove si incontravano musicisti, registi, mi ricordo Fellini che era sempre lì, Bernardo Bertolucci, mi ricordo pittori come Guttuso, scultori, Mazzacurati, c'era tanta gente che andava lì, e Elsa Morante era anche sempre lì, Moravia, e Pasolini, e poi Sartre quando veniva a Roma era sempre lì, anche lui da Rosati, insomma, quindi mi ricordo che stava così, stava a chiacchierare al tavolino davanti a un gelato, nessuno che bevesse veramente, non mi ricordo grandi cose alcoliche, salvo forse Sartre che beveva un po' e Simone de Beauvoir che cercava di limitarlo nei suoi bicchieri di whisky. Tantissimi scrittori, poeti, musicisti, cineasti venivano da fuori, insomma, cominciando da Fellini che veniva da Rimini, da Pasolini che veniva dal Friuli, moltissimi venivano da fuori, e io credo che però era il meglio della provincia italiana, quindi a Roma si incontrava il meglio. Quelli che si sentivano stretti nella provincia, che non avevano spazio, che non avevano le grandi case editrici, il grande centro cinematografico come Cinecittà, e che dovevano venire a Roma, quindi venivano per trovare spazio. Si cominciò a parlare della raffineria Pulfina nel 1952. Fu allora che si manifestarono per la prima volta i gravissimi inconvenienti. I cittadini, asfissiati dal fumo acre e pestilenziale che si sprigionava dalle ciminiere, reagirono protestando vivacemente contro coloro che avevano permesso la costruzione della raffineria nell'area di Via Portuense, ritenuta da tutti troppo centrale. Responsabile era l'amministrazione comunale dell'epoca. L'attività della Pulfina durò più di 10 anni, appestando una gran parte della popolazione, e furono migliaia quelli che in quel decennio furono ricoverati negli ospedali cittadini. Due piani dell'Istituto Luce a Cinecittà vengono distrutti dal fuoco alimentato da migliaia di rulli di pellicola. Sono molti i film degli anni 40, i documentari di repertorio che vanno in fumo. L'incendio fu domato solo dopo molte ore. Luglio 1963. John Fitzgerald Kennedy viene in visita a Roma. Quel giorno d'estate la città lo accoglie mostrando il suo aspetto più spettacolare. Accompagnato dal presidente Segni, attraversa via dei Fori Imperiali. Andiamo alla stazione? E perché alla stazione? Donna, vanno tutti in ferie, lei non ci va in ferie. No, io non ci vado purtroppo in ferie. Rino Barillari, re dei paparazzi. Lei nel 1963, quando il presidente Kennedy arrivò in Italia, c'era, e c'è anche uno scatto di lei con Jacqueline Kennedy. Dove eravate? Allora, quella foto è stata scattata in via Veneto, mentre John Kennedy girava per la città in forma ufficiale, la moglie in via Veneto andava a farsi i capelli. E come ha fatto a fotografarla? Come ha fatto a trovarsi lì in quel momento? Niente, perché davanti all'Excelsior c'erano 4-5 macchine e si vede subito che c'è qualche personaggio importante. Allora in quel momento stavo al Caffè di Parigi, sono uscito, uno scatto e fatta e via. Lei quanti anni aveva all'epoca? Calcola 20 anni. Quando ha scelto questo mestiere? Quando sono arrivato a Roma a 14 anni, non parlavo italiano ma parlavo calabrese, stavo a Fontana di Trevi a aiutare quei fotografi chiamati scattini, allora stavo vicino a loro, l'aiutavo perché per guadagnare qualche soldo mi davano le buste delle foto perché dovevo consegnare negli alberghi al centro ai turisti che partivano dopo un giorno, dopo due giorni, e così piano piano, giorno per giorno, guardando, osservando, ho avuto la macchina fotografica per fortuna, mi hanno detto come devo scattare, tutto quanto. E poi è nata la passione, diciamo. E dove sono diventato paparazzo, che io sono orgoglioso di essere, fiero di essere chiamato paparazzo. Rino Barillari, qual è lo scatto più bello che lei ha fatto di quella memorabile dolce vita a Roma? Sono tanti, dipende i gusti. Per me, per lei, è quello di La rissa di Frank Sinatra in Via Veneto, o un Ava Gardner ubriaca, o un Peter O'Toole una notte in un locale a Roma assieme con Barbara Steele, lui sposato felicemente, ma purtroppo quella sera stava con questa attrice pure inglese assieme, quello scatto mi è costato 6 giorni d'ospedale, 4 punti all'orecchio, dato che io ero minorenne, avevo 18 anni, mio padre ha fatto la denuncia, così il signor O'Toole ha dovuto pagare 1 milione a mio padre. Ma com'era la dolce vita? Era dolce, stupenda. Perché bella, era così dolce? Perché erano le novità che arrivavano dal mondo e noi cercavamo di imitare, cercavamo di guardare, osservare, fare, non c'erano soldi, c'era soltanto voglia di lavorare, di fare qualcosa di emozionante e il paese andava avanti piano piano. Rino Barillari, come faceva a riconoscere i volti di tutti quei personaggi? Facilissimo, perché io da bambino stavo sempre nella sala cinematografica di un mio zio, dove io tutti i giorni guardavo un film 3-4 volte, perciò facevo anche il doppiaggio, tutti i personaggi di quel periodo, perciò era più facile conoscere. Sì, ma poi non aveva una rete di autisti, non so, camerieri, di spie. Ero troppo giovane, no. Io me ne accorgevo per esempio quando delle persone si fermavano davanti a un tavolino e guardavano un personaggio, allora capivo che là c'era il personaggio, dove il personaggio era diverso degli altri, vestito bene, truccato, la scena, con lo champagne, o col whisky, o con la soda vicino, insomma era un po', per me era un po' facile capire, certo, il movimento, ecco. Anche se non conoscevo il personaggio, intanto scattavo. E dopo chiedevi i nomi. 162 visite al pronto soccorso, 11 costole rotte, una coltellata, 76 macchine fotografiche distrutte. Ragazzate, sì. Ma esisteva per lei un limite? Ma il limite esiste, ma erano loro stessi che cercavano la provocazione. Perché il limite dov'è? Il limite è quando tu chiedi al personaggio se posso fare delle foto e loro mi dicono sempre di no. Allora che faccio? Li faccio prima di nascosto e dopo chiedo. Però quando già ho chiesto, io già le foto l'ho fatte e via. Questa è la legge del giornalismo, non è che ogni personaggio che mi chiede non piccio, non faccio le foto. Anzi, quando dicono non piccio vuol dire che il personaggio è importante, dove non è come oggi col teleobiettivo, una volta col flash a 4 metri, perciò se c'era qualche cosa di non vero usciva subito, e se invece c'era la verità, tranquillo, camminava seduto e non problem, ma se c'era un love story in quel momento era fatta, ecco. La cosa più bella del suo mestiere? Niente, quando il personaggio ti ringrazia o ti cerca o fa delle cose che ti aiuta a realizzare un servizio di meglio come tu lo pensi. Per adesso sarà facile per lei, ovviamente. Non è facile, oggi è difficile perché è pieno di personaggi, c'è anche la privacy, c'è i telefonini che ci hanno messo a KO, per esempio, ti capita il Presidente della Repubblica che va a cena dopo il suo mandato, arriva un turista qualunque, fa uno scatto, quello scatto va su tutte le reti di su internet, il tuo servizio che tu sei stato 4-5-6 ore fuori del ristorante è fallito il servizio. Ma quindi ha ancora un futuro questo mestiere di paparazzo? Penso di sì, perché le foto si fanno con la testa, non tanto per farle, perché quando tu scatti sai che quello è un servizio, sai dove tu punti e già capisci qual è, se da prima pagina, da copertina o soltanto un richiamo e basta. Quando finisce secondo lei a Roma la dolce vita? La dolce vita è finita nel 64-65, dove è cominciata la contestazione, dove è cominciato il terrorismo, dove è cominciato i delitti. Poi lei è passato alla cronaca dei delitti. Come mai ha deciso, era una conseguenza? Perché a Roma non venivano più personaggi internazionali, allora a quel punto un altro tipo di lavoro. Via. Rino Barillari, quando è arrivato il soprannome The King? È arrivata una sera in un locale dove c'erano i miei grandi maestri tipo Tazio Secchiaroli, Marcello Geppetti, Elio Sorci, Paolo Pavia, Gilberto Petrucci, una serata da Dolce Vita per festeggiare i 30 anni dell'uscita del film della Dolce Vita in questo ristorante che si chiamava, prima era il Number One, dopo adesso è diventato un ristorante. Quella sera c'è stato un po' di personaggi italiani così e mi hanno dato la corona come re dei paparazzi. Il suo maestro? I miei maestri sono stati tanti, però uno su tutti? Su tutte è la strada, perché la strada ti fa veramente uomo, ti fa ragionare, capire ciò che il pubblico vuole, ciò che la gente cerca, insomma è la strada che ti aiuta. Ma lei che orari ha? Niente, esco la mattina alle 11, mezzogiorno, l'una, e faccio la mattina alle 3, alle 4, dipende dalle serate, via. Grazie Rino Barillari. Auguri a tutti. Grazie. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi ha presentato Mix 24.